si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Una buona giornata a tutti gli ascoltatori, una buona giornata a te Carlo, buongiorno. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Come va? Buona domenica. Tutto a posto? Bene, va bene, sì, assolutamente. Abbiamo passato una notte a sentire tutti i cantanti in questo incredibile concertone organizzato da Lady Gaga. Insomma, è stata una notte lunga e anche commovente. Beh, sicuramente, sicuramente. Invece io stavo leggendo le ultime agenzie di stampa che arrivano dagli Stati Uniti, sono incredibili questa rivolta contro il lockdown fomentata dallo stesso presidente degli Stati Uniti, quindi c'è un clima un po' confuso, ovviamente confuso da un punto proprio perché ci saranno le elezioni e quindi poi dopo si confondono tutti i piani, sanitario e politico. Ma non di questo noi parleremo ovviamente oggi, e oggi tra l'altro c'è da indovinare il personaggio della settimana, no? Quindi chi vuole, certo, si può, che sì, certo che sì, prenotare all'824 00 24. Si può sempre scrivere al 349 238 6666, ma per indovinare il personaggio della settimana dovete telefonare. Soprattutto potete indovinarlo anche via SMS e WhatsApp, ma se volete il premio bisogna telefonare e argomentare anche perché si è scelto un personaggio e non un altro personaggio, che può essere appunto uomo, donna, avvenimento, situazione. L'importante è che sia accaduto questa settimana e che sia una buona notizia, perché questo ci interessa, vero Carlo? Vero, verissimo. E direi che possiamo già dare il primo indizio e aprire le danze al nostro indovinello. Allora, il primo indizio è: ha fatto una donazione importante. Importante. Donazioni ne abbiamo viste tante, noi sottolineiamo che è importante quella che è stata fatta. E l'824 0024 è ovviamente il numero di telefono al quale prenotarvi per dare la vostra risposta. Nel frattempo aspettiamo, come ogni domenica, i tuoi consigli, Carlo. Sì, siamo tutti un po' stufi, devo dire, ci ingozziamo oltre che di cibo anche di serie TV, di videogiochi, di libri, di fumetti. Da qualche giorno io guardo vecchie partite di tennis sul canale Super Tennis, su Sky, su YouTube, ovunque le trovi. Mi piace moltissimo vedere incontri storici del passato, quelli con il commento originale, spesso in inglese, fatto come una volta. E devo anche dire che mi ero dimenticato che una volta i commenti e le partite fossero così diverse. I telecronisti stanno quasi sempre zitti, intervengono di rado e con interventi brevi ed essenziali. Per la maggior parte del tempo c'è silenzio assoluto, tranne il rumore della pallina che viene colpita e colpisce il terreno di gioco. Non c'è nessun punteggio in sovrimpressione mentre si gioca. Ecco, io penso che in questo momento in cui siamo schiacciati da un eterno presente che ha il bruttissimo nome di un virus e il futuro non si sa nemmeno come chiamarlo, per me è di grande sollievo riguardare sfide sportive. Io lo faccio con il tennis perché mi ricorda quando bambino lo guardavo con mio padre ed erano le uniche notti in cui potevo stare sveglio fino a orari assurdi, grazie ai provvidenziali fusi orari di New York o dell'Open d'Australia. Però credo che valga per qualsiasi sport, potete farlo con ciò che appassiona voi. Perché la cosa che mi piace è riconoscere che c'è stato un prima che sembrava immutabile, che poi invece inevitabilmente è cambiato tutto, eppure il mondo non è finito. Si diceva non ci sarà mai una finale più emozionante di Borg-McEnroe, e invece poi ci sono stati Lendl Becker, Agassi Federer, Nadal, Djokovic, eccetera. Siccome però consigliare di guardare vecchie partite o campionati mi sembrava un po' poco, ho anche due libri. Dopo aver rivisto l'incredibile finale di Wimbledon del 1980, non ho resistito a rileggere Borg-McEnroe di Stephen Tignor, edito HarperCollins, su quella che veniva definita la più grande sfida sportiva di tutti i tempi. E poi, in attesa di trovare e rivedere i suoi incontri, perché al momento non li sto trovando, quindi se avete dei consigli io sono tutto orecchi, potete scrivere sulla mia pagina di Facebook o anche a Si può fare, ovviamente. Io non posso non consigliare di leggere o rileggere Open di André Agassi, edito Einaudi, perché è un libro gigantesco sull'insoddisfazione e sul sapersi rialzare. ma tra l'altro è anche un libro che non serve essere appassionati di tennis per amare e per innamorarsi degli indimenticabili personaggi di cui è costellato. Dunque, il tuo ricordo del tennis ha scatenato i nostri ascoltatori che scrivono al 349-238-6666 ricordando Tommasi Scannagatta, Clerici, via via, insomma, ciascuno ha i suoi momenti, no, per il tennis. Circoletti rossi, è allora, vero, Clerici diceva circoletto rosso quando c'era un punto importante. Vedi, adesso hai evocato Clerici e vedrai quanti ne arrivano adesso di ricordi. Oh, tra poco vi faccio anche avere il numero di telefono per concorrere dall'estero, perché vedo che qualcuno ci scrive, ad esempio Vito da Hannover, sarebbe molto bello ci potesse chiamare, so che non può fare l'824 0024, ma forniamo senz'altro anche il numero per chiamarci e concorrere, così se ci fosse qualcuno che da lontano vuole provare, tentare la sorte, può farlo. Vorrei chiedere, perché tu hai detto, insomma, abbiamo fatto indigestione, ecco, di serie televisive, di vecchi film. Vorrei chiedere al nostro ospite come fa lui, e poi dopo da lui arriverà anche un consiglio per così cambiare un po' le nostre serate, insomma, con dei film di un altro tipo. Allora, il nostro ospite è Gaetano Capizzi, fondatore e direttore di Cinema Ambiente. Buongiorno. Buongiorno a voi. Gaetano, il cinema e il tennis piace? Anche tu riguardi vecchie partite, magari, o resti sull'ambiente? No, mi piace assolutamente, anche se non pratico, ecco, non ho avuto, ma è sicuramente diciamo un'epopea interessante, quasi eroica, quella del tennis. Sono delle figure che sono diventate ormai un po' dei miti, ecco. questo aspetto, diciamo. Certo, allora invece Cinema Ambiente quest'anno dobbiamo rinunciare, come abbiamo rinunciato a tante altre manifestazioni, ma voi avete preso una decisione, cioè quella di aprire, no, su la possibilità di vedere questi film online. Sì, appunto, abbiamo cercato in questo periodo anche con il Ministero dell'Ambiente e il Museo del Cinema di Torino di dare la possibilità di passare delle serate vedendo dei film di Cinema Ambiente, che sono dei film che ormai hanno, diciamo, una caratteristica ben precisa, ecco, sono documentari di grande respiro che affrontano dei temi che normalmente, insomma, non vengono poi messi in programmazione dalle televisioni. Per cui abbiamo chiesto a una serie di registi internazionali il permesso di poter mettere in streaming gratuitamente i loro film per 3 giorni in questo periodo di lockdown, e c'è stata una grande solidarietà internazionale, quasi tutti hanno accettato, chi non aveva vincoli contrattuali, insomma, sui propri film, di dare questi film a disposizione per questa iniziativa che si chiama Cinema Ambiente a Casa Tua, e prevede la messa, diciamo, online, streaming sul sito di Cinema Ambiente, cinemaambiente.it, ogni 3 giorni un nuovo film, spesso sono per la prima volta trasmesso con queste modalità in Italia, dopo essere passati al Festival Cinema Ambiente negli anni passati. Sì, infatti io qualcuno lo ricordo, sono molto belli. Prego, Carlo. No, mi chiedevo che cosa sono con precisione i film sull'ambiente, nel senso, non credo che siano solamente film che parlano di animali o film catastrofici, credo che sia più ampio il termine. Mi chiedevo anche se questo è un buon momento per vedere un film sull'ambiente, che siamo chiusi in casa un po' depressi, e mi chiedevo se questo è o non è un buon momento. Ma se cerchiamo, diciamo, l'intrattenimento e il film d'evasione, questi non sono film d'evasione, sono film che scavano, diciamo, le radici del problema, e questo è un ottimo momento per vedere questi film, perché quello che sta succedendo ha delle strette relazioni con l'impronta ambientale che stiamo avendo sul pianeta, e questi film ambientali guardano il tema da diversi punti di vista. Se andiamo a vedere i primi film trasmessi, ad esempio, che tra l'altro hanno avuto un grande impatto, ecco, abbiamo avuto decine di migliaia di visualizzazioni di questi film, quello più visto per adesso si chiama Green Lie, e parla del greenwashing, tutto questo fatto che oggi come oggi le aziende devono essere in qualche modo, i prodotti devono essere in qualche modo green, eco, perché se no non vengono venduti, no? E questo è un buon segno, no? In qualche modo, perché significa che la sensibilità ambientale del pubblico, di noi consumatori, è molto elevata, e cerchiamo dei prodotti a basso impatto ambientale. Ma spesso le aziende, ecco, qualche azienda ne approfitta impropriamente questa, per cui è una indagine, si sciacquano, diciamo, la coscienza. Eh sì, perché poi si sciacquano un po' la coscienza. E devo anche dire che in questo momento si parla addirittura anche di COVID washing, cioè di aziende che con qualche hashtag di restiamo a casa o promettendo donazioni che poi invece non vengono fatte, diciamo, cerca un po' di rifarsi l'immagine attraverso il virus. Sì, io ho visto in questi giorni in televisione che qua hanno rifatto quasi tutte le pubblicità dei prodotti, sono pubblicità fatte nuove per l'occasione, no? E sono tutte un po' improntate appunto su questo COVID washing, perché insomma è il momento. Ecco. I film ambientali parlano di tutti questi temi, ce n'è uno che proprio potrebbe essere questo, si chiama Dusk Chorus, che è un film italiano, nonostante il titolo, che è un film sulla perdita di biodiversità nelle foreste, no? Che è uno dei temi, insomma, il fatto della penetrazione in luoghi sempre più remoti, eccetera, mette spesso l'uomo a contatto con delle specie animali con cui normalmente non sarebbe a contatto, e c'è sempre di più, diciamo, questo passaggio, questa possibilità di passaggio di virus, ad esempio come quello che stiamo vedendo adesso. Parlano di questi temi, non necessariamente parliamo di catastrofi, ma di anche fotografie di situazioni, o anche di sono film propositivi, no? Piccoli gruppi che magari cercano di risolvere un problema che riguarda il loro ambiente, l'area in cui vivono. Non dobbiamo immaginare tutto come si chiamava quello di Al Gore. Una scomoda verità. Bravo, una scomoda verità. Non è tutto così. Ecco, sono film di vario tipo e di varie, che rappresentano varie situazioni. In questi giorni vedo Il sorriso del gatto. Il sorriso, sì. Quello che no, se uno si collega oggi trova questo. Sì, oggi trova un film italiano di Mario Brenta, è un regista italiano di lungo corso, diciamo, ed è un film più poetico, ecco, affronta il tema della società di oggi, tra le disparità sociali, tra ricchezza e povertà. È un film con delle immagini molto belle, è la voce narrante di Marco Paolini. Come appunto dicevo, i film vanno in onda per 3 giorni, e ancora oggi abbiamo Il sorriso del gatto, che consiglio, è un film bellissimo che ha vinto anche dei premi al Festival Cinema Ambiente. E questo che dicevi è molto importante: il cinema ambientalista di oggi è un cinema a volte, spesso, insomma, la tendenza è quella di essere un cinema propositivo, ecco, oltre a denunciare i problemi indica spesso delle soluzioni al problema, no? Da parte sia dei cittadini che dei governanti, di chi ha il potere di prendere le decisioni. Questa è un po' la cifra del moderno cinema ambientale, ecco, cercare di dare delle indicazioni, anche se i problemi che davanti a cui ci troviamo sono enormi, no? Perché davanti al cambiamento climatico, davanti all'estinzione, la sesta estinzione, eccetera, a volte bisogna denunciare, per cui è un cinema comunque che fa prendere coscienza di quello che sta succedendo. Grazie molte, grazie a Gaetano Capizzi. Grazie, vi ricordo Cinema Ambiente per appunto tutto questo mese. Sicuramente troverete ogni 3 giorni film nuovi. Abbiamo la viabilità tra pochissimo per parlare di come e quando torneremo al mare. Si può fare. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci qui di nuovo insieme. Tanti scrivono per parlare di tennis, mi dicono il circoletto rosso, però era Tommasi. Io non lo so, Carlo, qui gli esperti siete voi. Questo può essere. Questo può essere. Non mi metterei mai contro un espertone di tennis. E mi spiace, Laura, di averti infilato in questa. Nel tunnel! Io non leggo i WhatsApp, quindi se volete proprio farmi delle domande esplicite sulla questione del tennis, se scrivete l'SMS, esatto, io quelli li leggo. Quelli li può vedere. Intanto abbiamo Cristina da Catania che ha chiamato per concorrere e indovinare il personaggio della settimana. Cristina, buongiorno. Buongiorno, io pensavo al gruppo di africani che avversavano questo del Kenya. Ho versato 500 euro all'ospedale di Parma e come a questo punto questa donazione per poter contraccambiare dell'aiuto che gli era stato dato all'epoca. Allora, vediamo un po', quindi sentiamo un po' cosa dice il nostro notaio. Argomentato, Cristina, quindi... Purtroppo no. Comunque purtroppo è una bellissima notizia. Purtroppo no. Esatto, è una bellissima sì, notizia. Sì, guardi, è tanto bella questa notizia che ieri era in classifica, perché io immagino che lei stia parlando degli 11 ragazzi del Togo, togolesi, che ieri erano nella nostra classifica come buona notizia per il loro versamento, il loro bonifico di 510 euro. Quindi la ringraziamo molto per aver ricordato questa storia. Ieri non ho sentito quella parte vostra del programma che faceva riferimento ai ragazzi del Togo, se no non l'avrei detta. Comunque, grazie di tutto per la vostra informazione che è sempre splendida. Grazie a lei, Cristina. Grazie a lei. Grazie. Cristina ci chiamava da Catania e adesso ci colleghiamo con un'altra isola invece, con la Sardegna, dove c'è Massimiliano Cossu, amministratore delegato di Portale Sardegna S.p.A. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, perché ovviamente ci teniamo tanto a sentirvi? Perché state lavorando per l'accoglienza, no, dei turisti nel corso dell'estate, quindi state ragionando su questa famosa fase 2/3 a questo punto. Come si fa ad accogliere le persone dopo una crisi così forte o anche durante, non lo sappiamo a che punto saremo quest'estate? Beh sì, l'importante è non farsi trovare impreparati, perché nel momento in cui le autorità competenti decideranno che il turismo dovrà ripartire, per evitare appunto una ripartenza disordinata per il bene dei turisti, degli operatori, ma anche della popolazione, dobbiamo organizzarci. Per cui abbiamo... Diciamo noi che siamo un soggetto aggregatore, che lavoriamo con tutta la filiera, perché voi sono 700 realtà turistiche, no, rappresentate, riunite? Ma noi siamo un tour operator che opera in tutta l'isola da 20 anni, e quindi abbiamo contratti diretti con quasi 700 operatori, ma in queste riunioni hanno partecipato veramente il Golta del turismo sardo, e quindi sicuramente sono poi rappresentative di quello che è il PIL turistico sardo attualmente. E l'idea appunto è quella, il progetto che poi sta prendendo, diciamo, sempre più vigore, devo dire anche con grande entusiasmo, è quello di creare, in attesa delle direttive che arriveranno, una sorta di codice di autodisciplina, un aggregato di best practice, in maniera tale da comunicare al mercato la Sardegna c'è. Dunque, voi ci siete, ovviamente avete in Sardegna anche pochi contagi, fortunatamente. Non c'è una preoccupazione magari anche da parte delle realtà turistiche, appunto, del territorio ad accogliere, no, numerosi turisti dall'esterno? Appunto per questo vi dico, nel momento in cui le autorità decideranno, penso che siano le autorità governative, ma anche quelle regionali, decideranno che il turismo dovrà ripartire, bisogna essere organizzati. Non possiamo assolutamente pensare di lavorare in maniera disorganizzata, ognuno per conto suo. Poi quello che facciamo non è certamente un protocollo, il protocollo lo dovranno fare le autorità competenti. Noi cerchiamo di portarci avanti, cercando di capire quali sono le best practice che ragionevolmente possono ridurre drasticamente il rischio di contagio, ed è un lavoro che ci serve da una parte per iniziare a prepararci, dall'altra per comunicare al mercato la Sardegna c'è, perché poi le prenotazioni devono ripartire, perché se non ripartono le prenotazioni non possiamo neanche pensare di organizzarci. Certamente. Dunque, abbiamo visto Carlo, intervieni perché io non... Prego. Sì, volevo intervenire proprio sulla questione delle prenotazioni, perché la grande domanda a questo punto è esattamente questa: dobbiamo o non dobbiamo prenotare? Ursula von der Leyen ci ha detto aspettate, l'ADUC, che è l'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, ha detto diventa difficile prenotare, perché in realtà i soldi non ti vengono restituiti, ma vengono restituiti solamente in voucher, quindi da usare in una successiva ed eventuale vacanza, e invece loro dicono ci serve la certezza che ci tornino i soldi in questo momento in cui di soldi ce n'è pochi. Voi che cosa dite? Dobbiamo o non dobbiamo prenotare? È stato risolto questo problema, per esempio, della restituzione dei soldi invece che dei voucher? Allora, guardi, ad esempio, le dico come ci siamo mossi noi. Noi abbiamo ridotto drasticamente la percentuale di caparra da un 20 a un 5% e dato la possibilità al cliente di disdire la vacanza fino a 3 giorni. Anche qui abbiamo fatto un'aggregazione di strutture turistiche ricettive che hanno accettato questa proposta, e secondo me questa è una soluzione. Lo sa perché? Perché alla fine, comunque, prenotando prima, gli sconti sono decisamente più elevati. Poi i rumor. Ma quel 5%, quel 5% nel caso poi viene restituito o non viene restituito? Beh, quello è un contratto a parte, ovviamente è un accordo tra noi e i nostri clienti, ovviamente il 5% viene restituito in cash e non con il voucher. Però già, ecco, questa è un'ottima notizia. In maniera drastica, non è più un 20%, ma è un 5% e viene restituito, e posso disdire la vacanza fino a 3 giorni prima. E questo approfittando degli sconti di advance booking, che sono certamente molto interessanti in questo momento. Io ho visto, andando su un piano operativo, diciamo, di quando le persone arriveranno, che state facendo delle ipotesi su come gestire questo flusso di turisti, ad esempio sull'aspetto sanificazione, distanziamento all'aeroporto, al distanziamento in spiaggia. Ci fa qualche esempio di quello che avete in mente? Ma guardi, visto che abbiamo visto le ipotesi più assurde, no? Pensavo magari voi siete più pratici, diciamo. Sì, i grandi filoni sono ovviamente la sanificazione e il distanziamento sociale. Devo dire che stiamo ricevendo, grazie anche al risalto che ha avuto questa iniziativa Sardegna Isola Sicura, tantissime proposte, tante idee, diverse app, ad esempio qualcuna che misura l'affollamento sulla spiaggia, qualcuna che aiuta a ragionare sul distanziamento sociale nei momenti di aggregazione, ad esempio nei buffet, nei ristoranti, nelle piazzette, tantissime idee che stiamo cercando di inquadrare e di mettere ovviamente a disposizione dei nostri fornitori, dei nostri hotel, dei rappresentanti delle varie filiere. perché un altro vantaggio che offre Sardegna Isola Sicura agli operatori è ovviamente la creazione di un gruppo di acquisto. Nel momento in cui si stabiliscono tutti insieme degli standard, ovviamente il potere di acquisto aumenta e quindi si riesce a risparmiare e certo, a rendere economico ciò che altrimenti non lo sarebbe. Allora, noi le auguriamo buon lavoro e ci auguriamo di venirvi a trovare presto, perché comunque significherebbe tanto poter ragionare sulla possibilità di andare fino in Sardegna. Massimiliano Cossu di Portale Sardegna, buon lavoro, buon proseguimento. Noi ci troviamo dopo GR24. Grazie anche a voi. Grazie. Si può fare. Attività che si possono fare a distanza, io non immaginavo che ci potessero essere le degustazioni, invece esistono i corsi di sommellerie che vanno avanti. Ne parliamo adesso con Giuseppe Vaccarini, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. È il presidente nazionale di ASPI. Carlo, tu sei sempre con noi, vero? Certo che sì, assolutamente, anzi volevo semplicemente aggiungere che ho anche studiato durante questa pausa e effettivamente chi diceva circoletto rosso era assolutamente Rino Tommasi. Ringrazio anche Francesco che mi ha scritto un sms dicendomi anche che esiste a Torino un bellissimo circolo che si chiama proprio Circoletto Rosso, e quindi ci tenevo a dirlo. Che meraviglia, non so se Vaccarini, anche lei è un esperto di tennis, ma sicuramente lo è appunto di degustazioni. Come fate a portare avanti questi corsi così a distanza? Siamo trovati anche noi questa situazione all'improvviso, quindi abbiamo cercato di risolverla nel miglior modo e diciamo che non ci fermiamo, perché fortunatamente ci sono anche tante persone interessate all'enogastronomia, alla degustazione, e tra l'altro devo dire anche che oggi è una moda ma fa parte della nostra cultura, quindi questo interesse ci ha spinto immediatamente a pensare a una soluzione, è stata quella di proporre i corsi che erano già in programma di farli direttamente su Skype o comunque con dei videoconferenza. E quindi insomma siete partiti, andate avanti e tra l'altro è anche un buon modo, diciamo, per sostenere un intero settore. Esatto, perché il settore dell'enogastronomia e della produzione dei vini è sicuramente uno tra i più penalizzati, perché si consuma molto meno vino, non si va più al ristorante, si consumano solo vini di basso livello, non c'è più esportazione, è veramente tutto il settore bloccato, e questo è un modo per continuare a promuovere i nostri prodotti, farli conoscere, farli apprezzare e prepararsi anche a quello che succederà, speriamo succederà dopo in modo più positivo. Ma mi scusi, sì, ma devo capire come funziona, nel senso, uno come fa ad avere il vino a casa? Ognuno si deve comprare le proprie bottiglie, e poi se uno si compra la bottiglia e se la versa sa già che cosa c'è dentro, perché la questione del sommelier è che io ti metto del vino che tu non sai che cos'è e devo indovinarlo, quindi sono molto curioso di capire come funziona. No, devo fare una piccola correzione, non c'è da indovinare nulla, soprattutto per chi deve apprendere la degustazione. E diciamo che intanto il bere, per dire così in generale, caratterizzato dall'esigenza di soddisfare un bisogno primario, ma non è il nostro caso. Quindi la degustazione, invece, come viene insegnata nei corsi, è caratterizzata dallo scopo di soddisfare esigenze edonistiche da una parte per mezzo di sensi, ma anche apprendere a valutare le sensazioni percepite durante le fasi dell'analisi sensoriale, quindi un apprendimento questo. E quindi per quanto riguarda l'apprendimento, al corso si procede per assaggi in questo modo. Quindi è un modo per insegnato questo. Il bello di andare a una degustazione è che c'è il vino, se non ho il vino a casa come faccio? No, allora si fa in questo modo. Noi abbiamo risolto nell'emergenza di far acquistare a tutte le persone che partecipavano ai corsi vini della stessa tipologia, anche se non dello stesso produttore, di cui almeno si parla più o meno allo stesso linguaggio. Ovviamente in futuro questo verrà risolto inviando tutti i vini da degustare, se continuerà ovviamente questa emergenza, quindi tutti degusteranno lo stesso vino allo stesso momento. Certo. Certo. E così potrete fare appunto il vostro corso. Mi sembra un'ottima soluzione. Senta, prima di salutarci, intanto ovviamente si può sempre contattarvi online, no? Se uno vuole iscriversi. Certo. Le iscrizioni a questo punto, i corsi vanno, immagino, a ciclo continuo, perché è possibile sempre farli. Esatto, questo da una parte anche un vantaggio, bisogna saperlo cogliere, speriamo che funzioni, però ci permette di arrivare anche dove prima fisicamente non potevamo essere presenti. Eh sì, perché appunto chiunque da qualunque parte anche del mondo può collegarsi e fare la sua degustazione guidata. Sì, perché abbiamo anche tanti sommelier, tante persone che lavorano all'estero che hanno bisogno di conoscere, aggiornarsi e imparare qualcosa, quindi gli daremo questa possibilità. Mi sembra ottimo. Invece per tutti noi mortali che non siamo in grado, diciamo, ci dà un consiglio di vino da quarantena, diciamo così, perché dice tanti sono ridotti a cibi in scatola, mi facevano notare, e insomma bisognerà magari accompagnarsi con a livello adeguato. Beh, insomma sì e no, perché si può sempre bere bene lo stesso. Ma direi la cosa migliore, visto che non si può andare... Si deve bere bene, questo uno compra, compra cibo in scatola, ma vuole bere bene. Beh, ma di solito si fa così, insomma, non ci si fa mai mancare il buon vino. Ma direi che la cosa migliore, visto che non si può viaggiare, spostarsi, è quella di bere, acquistare i vini locali, perché abbiamo la fortuna in Italia di produrre vino in tutte le regioni. Quindi i vini locali sono sempre più adatti agli abbinamenti, sono più semplici da conoscere e da apprezzare. Se si vuole o si ha la possibilità di acquistare anche altri vini, allora direi di andare su vini che possono in qualche modo abbinarsi un po' a tutta la cucina italiana, partendo al nord verso il sud, siamo a Milano, il San Colombano che ha la denominazione di Milano piuttosto che l'Oltrepò Pavese, oppure nei bianchi, il Pino Bianco delle scuole orientali del Friuli per andare verso est, oppure scendendo verso il centro con il Verdicchio dei Castelli di Jesi, o ancora più al sud, il Piano di Avellino o il Negro Amaro del Salento, o per le isole, per esempio, il Vermentino di Sardegna o il Nero d'Avola per la Sicilia. Ok, le lo teniamo come mappa di riferimento. Grazie molte. Grazie molte. Giuseppe Prego. Vaccarini, presidente nazionale di ASPI, i corsi sempre aperti per chi vuole imparare e adesso ha magari più tempo per farlo. Prima della viabilità vorrei sentire anche Lucia dalla provincia di Monza e Brianza, perché ha telefonato per indovinare il personaggio della settimana. Sentiamo un po'. Lucia, buongiorno. Buongiorno a voi, buona domenica. Allora, non so ripetere il nome perché è inglese, comunque credo sia, perlomeno spero sia, il cugino del principe William, che ha donato una grossa fetta della sua eredità a favore dell'emergenza della sanità inglese. Ok. Ok, anche se l'ho molto indecisa con il veterano, dice la verità. Ma non era lui. Come non detto. Va bene, grazie, va bene. Grazie a lei comunque. Buona domenica. Arrivederci. Buon lavoro. Buongiorno. Grazie, arrivederci. Traffico. Si può fare. That would make you well. Write about love, it could be in any tense, but it must make sense. Parliamo adesso di Smart City. Tu quanto ne sai, Carlo, di Smart City? A sufficienza, direi. No, in realtà sono molto curioso, perché sotto il cappello di Smart City ci sono un sacco di cose, quindi va ben capito che cosa si intende quando si parla di Smart City. Ed anche quanto Smart City, e in particolare in un contesto di di housing, come si suol dire adesso, comunque di costruzioni accessibili, possono aiutare in situazioni di emergenza come queste. Ne parliamo con Giovanni Savio, che è Global CEO di Planet Smart City, che si trova in questo momento in Brasile, quindi lo ringraziamo per questa sveglia che ha messo stamattina, puntato molto presto per parlare con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ora, visto che parliamo con l'estero, mi sovviene che io avevo promesso all'inizio della puntata, e questo non c'entra niente con, con le Smart City, che avrei dato il numero per i nostri ascoltatori che si trovano all'estero e che magari vogliono intervenire ma non possono farlo chiamando l'800 24 00 24. Allora vi do questo numero, che è 02 46 52 45 25. Poi lo ripeto, comunque intanto 46 52 45 25, il prefisso è quello di Milano. E adesso torniamo in Brasile con Giovanni Savio. Lei tra l'altro lì è proprio per seguire questo tipo di progetti Smart City in aree, non, perché noi di solito lo Smart City, tutto ciò che è smart lo colleghiamo a qualcosa di anche molto dispendioso. Invece mi sembra di capire che lei lì in Brasile si stia occupando di Smart City su un livello medio, diciamo. Sì, assolutamente. La missione di Planet, che è una società che ha sede a Londra ma che vede il suo competence center a Torino, è un luogo dove noi occupiamo 80 collaboratori tra architetti, ingegneri, agronomi, che studiano ogni giorno le soluzioni più intelligenti da integrare nei nostri progetti immobiliari in giro per il mondo. La Planet ha questa missione. La missione è quella di costruire quartieri smart con abitazioni a prezzi accessibili, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Concluda. Ci siamo resi conto con la realizzazione del nostro primo progetto in Brasile, stiamo realizzando vicino a Fortaleza, una piccola cittadina per 25.000 abitanti, che i progetti per l'affordable housing, quelli di grandi dimensioni, quelli sopra le 1.000 unità abitative, sono circa 2.000 all'anno. Sono un quartiere per 1.000 abitazioni o più che viene realizzato, viene avviato ogni 4 ore. E proprio come diceva lei, allo stesso tempo abbiamo osservato che la stragrande maggioranza di questi progetti, che realizza case basiche, semplici, che siano accessibili alle persone di basso reddito, e vede la realizzazione di case sì basiche, povere, ma soprattutto vede la realizzazione di questi piccoli quartieri privi di infrastrutture. Sono proprio, diciamo, dei luoghi che hanno poco da offrire ai futuri residenti. E la nostra missione è stata proprio quella: dimostrare che con l'innovazione tecnologica e l'innovazione sociale che noi integriamo nei nostri progetti siamo in grado di realizzare servizi assolutamente migliori e accessibili a tutti. Dunque, in Italia progetti da 25.000 abitanti non ce ne sono, quindi no. Dobbiamo declinarlo diversamente. Sì, allora possiamo anche dire che appunto Planet ha questa missione, e infatti abbiamo già 3 cantieri in corso in Brasile, quindi il progetto da 1 sono già diventati 3, ma ne abbiamo in programma 32 nei prossimi 4 anni, e stiamo replicando questo progetto, che all'inizio è nato come unico, come un format proprio per creare quartieri smart accessibili a tutti, non solo più in Brasile. Abbiamo firmato da poco un accordo con un partner indiano per realizzarne anche uno a Pune, in India. Molto probabilmente ne realizzeremo anche uno in Colombia, stiamo già definendo degli accordi con dei partner in Colombia, e poi stiamo guardando anche altri paesi che hanno grandi deficit abitativi e che hanno bisogno di realizzare case affordable su larga scala, approcciandoci con il nostro format, ma anche in Italia, non da sviluppatori ma da advisor, da consulenti. Abbiamo in corso di realizzazione un progetto a Milano proprio, è un progetto realizzato da Investire, che è un'importante SGR italiana, un progetto di 600 appartamenti finalizzato per il social housing, quindi saranno case affittate a prezzi accessibili, mm-hmm, che vedrà l'integrazione di 40 soluzioni smart. E questa è una cosa assolutamente che ci rende orgogliosi ed è importante per il nostro gruppo. Quartieri di questo, certo, tipo. Ma mi scusi, prego. Ma sì, ci spiega che cosa vuol dire un quartiere smart? Nel senso che ho difficoltà a capire che cosa vuol dire costruire un quartiere smart per 25.000 persone. E poi questa giusta differenza fra smart, siamo abituati, diciamo, tra smart e social. Di solito smart sono le cose care e costose, vedi lo smartphone, invece social sono le cose economiche che costano poco. Quindi com'è che si uniscono queste due cose? Ma partendo dalla prima domanda, che invece è: che cos'è un quartiere smart? Ecco, proprio questo, per quello vi dicevo che abbiamo creato questo gruppo di ricerca a Torino che studia le soluzioni legate alle smart city in tutto il mondo, proprio per estrarre le idee migliori dal punto di vista tecnologico, ma anche di innovazione sociale e digitale. Il nostro concetto è proprio quello di portare su questi progetti a larga scala soluzioni intelligenti ma accessibili a tutti. Faccio degli esempi molto pratici che negli ultimi giorni di emergenza noi ci siamo resi conto che possono essere ancora più impattanti di quello che pensavamo prima di affrontare questa emergenza. Prima di tutto partire da quartieri dotati di infrastruttura, parlo per esempio di fibra ottica che crei la connettività per tutti i residenti in modo da supportare tutti gli strumenti digitali e soprattutto gli smartphone che ci permettono di metterci in contatto con gli abitanti. Ma poi cioè, di avere molto internet. Pratici, avere internet accessibile a tutti a dei costi ovviamente contenuti, avere anche delle aree wifi free all'interno di questi quartieri, ma per esempio soluzioni che in questi giorni noi ci siamo resi conto essere ancora più importanti, tipo avere appunto dei locker per la consegna degli oggetti quando le persone non sono in casa, i locker refrigerati di cui si è sentito parlare negli ultimi tempi per consentire agli esercenti locali di evadere gli ordini anche quando i destinatari non sono appunto presenti in casa. Oppure gli orti urbani, che sono, insomma, abbiamo visto come è importante avere sotto casa un luogo dove coltivare le proprie verdure, o librerie degli oggetti. Noi tutti i quartieri che progettiamo li realizziamo con dei luoghi che permettono magari piccoli lavori di bricolage per far sì che magari se uno non può accedere alla manutenzione di qualcosa possa avere dei luoghi attrezzati. O ci posso citare anche l'esempio del book crossing, che anche è un'altra soluzione che noi integriamo sempre nei nostri quartieri, luoghi dove scambiarsi dei libri. Abbiamo visto quanto è importante poi alla fine aprire le librerie, perché ovviamente uno non può avere una libreria infinita in casa. Ma la cosa, diciamo, che abbiamo tantissime soluzioni che noi stiamo integrando nei nostri quartieri, anche soluzioni puramente tecnologiche come l'illuminazione smart a basso consumo, l'irrigazione smart per ottimizzare l'acqua per irrigare le aree verdi, ma diciamo il cuore proprio dei nostri quartieri smart è la parte social. Tutti i nostri quartieri avranno dei community manager per organizzare eventi, corsi, li stiamo già organizzando nella prima smart city che è già abitata dalle prime famiglie, e soprattutto la nostra app, perché l'app diventa lo strumento con cui gli abitanti del quartiere si relazionano in maniera più sociale, più, certo, integrata. Che tra l'altro questa diciamo socialità in un momento di crisi come può essere questo, diciamo, aiuta, perché diventa solidarietà. Certo, assolutamente sì. Abbiamo per esempio in corso un progetto a Torino che è stato un piccolo ma grande successo da parte di Planet, che è stato appunto utilizzare la nostra app per le eccedenze alimentari di alcuni negozi, con cui abbiamo raccolto più di 350 kg di eccedenze alimentari che sono state distribuite a famiglie a basso reddito che ne avevano bisogno. Quindi questi strumenti diventano ancora più importanti per le persone, come dicevamo prima, che magari hanno risorse economiche limitate, ma oramai nel mondo anche queste famiglie tutte hanno uno smartphone, tutte sanno come utilizzarlo. I nostri utenti delle nostre case in Brasile hanno un'età media inferiore ai 30 anni, quindi sono assolutamente digitalizzati e anzi sono molto più bravi di noi a usare lo smartphone. Senta, questo è sicuro. Sicuramente, sicuramente. Io la vorrei ringraziare e salutare, la lascio al, al suo lavoro che la giornata lì sta posso iniziando. Posso fare una domanda sì, velocissima? Prego. Certo. Chiedo scusa, no, volevo approfittare del fatto che ci sta rispondendo dal Brasile per sapere com'era lì la situazione, visto che leggiamo di Bolsonaro che è un negazionista, o oltre sui problemi del clima è negazionista anche sul virus, e ieri ha cacciato e licenziato il proprio ministro della salute mettendo al suo posto il proprietario di alcune cliniche private che invece è prontissimo a riaprire il paese. Mi chiedevo com'è la situazione. Beh, la situazione qua bisogna subito fare una premessa. Il Brasile è uno Stato federale, quindi diciamo che c'è ovviamente un indirizzo nazionale, poi gli Stati federali si stanno organizzando un po', diciamo così, a ognuno per sé. Autonomamente. Quindi, autonomamente. Quindi noi per esempio siamo presenti in due stati, uno è il Ceará, dove c'è un lockdown completo e abbiamo chiuso i nostri cantieri, e l'altro invece è Natal, dove hanno lasciato gli esercizi commerciali aperti e anche i cantieri aperti. Diciamo che noi, utilizzando un po' l'esperienza triste che possiamo dire che di aver anticipato un po' tutti gli eventi in Italia, abbiamo preso tutte le misure del caso sul cantiere di Natal, che è quello che nonostante stiamo portando quello, avanti. Nonostante questo, insomma, ci stiamo organizzando. Per fortuna, diciamo che possiamo dire che sia in Italia che in Brasile, per tutti i collaboratori di Planet Idea non abbiamo ancora avuto dei casi. Stiamo assistendo un pochettino all'evoluzione, speriamo che diciamo anche il Brasile si organizzi un po' meglio di quello che ha fatto fino adesso, ma insomma noi cerchiamo di fare tutto nel nostro piccolo, prendendo tutte le precauzioni del caso, quello sicuramente. Grazie, grazie Giovanni, in bocca al lupo, buon proseguimento. Grazie. Allora, Giovanni Savio. Grazie a voi, grazie e buona giornata a tutti. Buona giornata, Planet Smart City. Abbiamo Laura da Monza, sentiamo la sua ipotesi sul personaggio della settimana. Buongiorno, buongiorno Laura. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, io avevo pensato alla bambina di Savona di 7 anni che ha rotto il salvadanaio per donare i suoi risparmi per il coronavirus, insieme al fratellino Alessio che ha dato 20 euro se non sbaglio per la Croce Rossa e la Croce Bianca. Sicuramente un bel gesto da parte di questi bambini. Sentiamo se sono loro i personaggi. Pazienza, però ci fa piacere averli ricordati. Pazienza, la prossima volta, la ringrazio. Grazie. Buona giornata. Grazie mille, è un'ottima occasione comunque per ricordare tutte le donazioni, quindi ne siamo molto contenti. Diciamo che tutti questi varrebbero il premio, e intanto siamo contenti di ricordare anche i bambini di Savona che hanno donato 20 euro. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E se le smart city, le città intelligenti, possono essere un aiuto in tempi di emergenza, sicuramente bisogna trovare anche un modo per ripartire a organizzare eventi, mostre, fiere, e si può ovviamente ripartire dall'uso della tecnologia. In particolare si potrebbe ripartire dalle... ce lo diranno loro. Lorenzo Cappannari, CEO e fondatore di Another Reality, buongiorno. Buongiorno e buona domenica. Allora, come si potrebbe ripartire, buongiorno, sul settore eventi, per esempio? Ma il settore lenti è stato uno dei settori più toccati dalla crisi effettivamente. Le tecnologie potrebbero aiutare perché per esempio la realtà virtuale permette di creare delle relazioni umane da distanza, quindi da remoto, molto più vere, molto più realistiche. Spesso le aziende stanno utilizzando tecnologie che sono molto simili alla televisione, quindi si crea una trasmissione e le persone da casa ascoltano, mentre con la realtà virtuale si potrebbe immergere in degli ambienti, comunque già si sta facendo, molto realistici, dove oltre all'ambiente il realismo è anche quello del contatto umano, quindi oltre ad ascoltare una persona che parla ci si può avvicinare agli altri partecipanti, scambiarsi un biglietto da visita e prendersi un caffè virtuale, proprio come si farebbe durante un evento fisico. Io non lo so, la cosa da una parte mi entusiasma, dall'altra un po' mi spaventa, no? Voi siete ovviamente siete lavorate in questo settore e quindi la vivete in maniera totalmente diversa dal grande pubblico, ma ho letto ad esempio ieri della Fiera di Verona che sta ragionando su questo con tutte le loro grandi manifestazioni, quindi chiaramente è una frontiera che non è lontana a questo punto. Ma diciamo che è una tecnologia che è stata per tanti anni nelle fantasie popolari, quindi già dagli inizi degli anni 90 si sperimentava con questi visori che però a quel tempo erano molto cari e avevano delle performance abbastanza basse. Nella fattispecie nel frattempo usciva Matrix, uscivano dei film che davano l'impressione di tecnologie molto fantascientifiche. In verità oggi si tratta di hardware che sono in commercio, tecnologie accessibili a tutti e che con la fantasia del cinema hanno poco a che spartire. Si tratta di tecnologie che aiutano le aziende concretamente a risolvere dei problemi concreti. Siamo lontani, se vuoi, dalla fantascienza pura, quella che un po' è il grande spauracchio. Mi perdoni l'ignoranza, ma bisogna comprarsi il visore, nel senso non è che lo possiamo fare con i nostri computer che abbiamo a casa adesso, serve che ognuno dei partecipanti abbia a casa uno di questi visori, e mi chiedevo anche dove si trovano questi visori e se sono tutti uguali o meglio se sono compatibili, perché non vorrei che uno compra un visore e poi dice ma questo non va bene per la Fiera di Verona. Per la Fiera di Verona serve il visore BB4S.4. Ma generalmente, allora per rispondere alla domanda inizio dall'inizio, non sempre c'è bisogno di un visore, cioè generalmente il visore permette di avere un'esperienza più immersiva e di fare magari delle cose in più che da monitor non potresti fare, però comunque già utilizzando un PC generalmente l'80% delle funzionalità rimangono, chiaramente ci si perde quel senso di presenza che è poi peculiare della realtà virtuale. E i visori ce ne sono purtroppo ancora diversi, non esiste un vero standard di mercato perché non è una tecnologia una tecnologia abbastanza infatti. Giovane, quindi sì, diciamo che le piattaforme quelle pubbliche generalmente supportano un po' tutti i visori più distribuiti, però non esiste ancora un vero e proprio standard di mercato, quindi bisogna fare attenzione prima di andare alla Fiera di Verona a capire qual è il modello di visore supportato dalla fiera. Va bene, quindi ci ha dato comunque uno strumento importante. Certo, noi staremo attenti, è semplicemente per capire. E chiedo un'ultima cosa, ma come funziona il fatto di dare un biglietto da visita? Nel senso che se io non ho il visore, partecipo guardando il computer, com'è che batto sulla spalla di qualcun altro che è lì presente e gli dico questo è il mio biglietto da visita? Non esiste anche qua un vero e proprio standard, ci sono diverse piattaforme e ogni piattaforma ha la sua modalità, alcune banalmente da monitor questo tipo di interazione naturale tra le persone non lo permettono, nel senso che per battere sulla spalla una persona, sussurrargli qualcosa nell'orecchio, scambiargli un biglietto da visita c'è bisogno di entrare nello spazio virtuale attraverso l'utilizzo di un visore che dà appunto un senso di presenza in prima persona nello spazio, altre invece lo simulano come faceva, non so se si ricorda, il vecchio Second Life, ormai è passato un bel po' di tempo, però certo. Era stato abbastanza un fenomeno mediatico quella volta, generalmente si naviga in uno spazio digitale con un avatar che si guida fondamentalmente attraverso i comandi standard del PC. Muovendo l'avatar ci si avvicina all'avatar di un altro partecipante e si può iniziare una discussione aprendo una chat, un dialogo uno a uno in linea di massima. Dipende un po' dal tipo di piattaforma certo. utilizzata. Ad alcuni questi visori, sì, no, pensavo più che senso di presenza danno un senso un po' di nausea, non so, forse bisogna prendersi, abituarsi, cioè ci si abitua dopo un po'? Allora, il senso di nausea anche questo è un po' un retaggio della storia. La realtà virtuale che vediamo oggi è figlia di tanti anni di evoluzione e tanti, diciamo, lanci sul mercato che sono più o meno falliti, cioè il primo lancio commerciale di realtà virtuale è stato negli anni 90. Poi è sparita proprio perché la gente fondamentalmente stava male. La verità è che il motivo per cui si sta male in realtà virtuale non è legato alla tecnologia stessa, ma è legato a come viene programmata e a quanto potente è il computer o il microprocessore che fa girare il software. In linea di massima, quando si sta male è perché il nostro senso di equilibrio che sta dentro l'orecchio e invece la nostra vista hanno delle percezioni diverse e quindi il nostro cervello non sa più come reagire, vede una cosa, ne percepisce con l'equilibrio un'altra e ci fa star male perché pensa che siamo stati avvelenati. In realtà questa cosa oggi tende a non essere più tanto vera sui nuovi software perché ci sono un sacco di escamotage che permettono di evitare questo problema, però sì, diciamo, anche questo fa parte dell'immaginario collettivo, la realtà virtuale fa star male. Effettivamente quella fino a qualche anno fa c'erano diverse esperienze che facevano star male la gente, oggi non è più così per fortuna. Dunque, voi in questo periodo siete in fase di super lavoro, per curiosità? Sì, assolutamente sì, non abbiamo pause neanche. Possiamo mandare dei curriculum? Sì, benvenuti, stiamo assumendo. Dalla voce sento una certa gioventù, non so, che età avete in azienda? Io sono il più vecchio, ho 42 anni. Ormai sono finito. Sì. No, i ragazzi sono tutti molto molto giovani, diciamo che viviamo in un... Il curriculum per entrare a lavorare in un'azienda come la nostra è generalmente il curriculum di sviluppatore di videogiochi e quindi il programmatore di videogiochi generalmente è molto giovane, è una figura molto appassionata e quindi anche il clima di lavoro è molto positivo in aziende come la nostra, diciamo così. Poi chiaramente i ritmi, soprattutto in questi periodi di picco, sono comunque intensi, anche se siamo a casa, però almeno ci si diverte. Certamente. Allora, io devo così salutarla e ringraziarla di questo collegamento. Devo anche dire grazie a Primum Vivere, che è un altro sito aggregatore di buone notizie che abbiamo scovato in questo periodo. Anche questo nasce da una agenzia di comunicazione che si chiama SEC, che le sta raccogliendo queste storie di aziende e di iniziative che ci sono in giro per l'Italia. Lo dico, ieri ne abbiamo nominato uno, oggi ne abbiamo nominato un altro con una delle storie che vengono raccontate, per l'appunto quella di Lorenzo Cappannari e di Another Reality di cui abbiamo appena parlato. Grazie e buon proseguimento. Arrivederci. Abbiamo un altro concorrente per il nostro quiz, sai Carlo, anzi non quiz, indovinello. E poi diamo il secondo indizio, perché ci siamo dimenticati fino adesso di darlo, certo. E mi fanno notare che insomma giusto. Sarebbe ora ormai. Allora, Francesco ha chiamato dalla provincia di Crotone, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Buongiorno. Vi seguo quasi ogni mattina. Grazie, grazie Francesco. Allora, grazie. Ci dica un po' qual è la sua idea. Ma secondo me Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, che ha dato un terzo del proprio patrimonio personale, circa un miliardo di dollari comunque. Per contrastare l'emergenza, per aiutare, diciamo, sì, in questa per fase. Per il coronavirus, sì, esatto. Allora, vediamo un po'. Non è neanche lui, anche se un miliardo non è poca roba. Esatto. Non era lui, ma è una notizia straordinaria questa di però, Jack Dorsey. Non so, appunto, se poi l'ha come fatto. Ci ricordava. Cioè, nel senso che l'ha annunciato, adesso vogliamo vederlo alla prova, ecco, in questo senso lo dico. essendo il CEO di Twitter, non credo che si possa permettere poi di non farlo, perché avrebbe anche solamente su Twitter un flame tale che lo lo brucierebbe vivo. Allora, esatto. Francesco, grazie molte, buon proseguimento. Ciao ragazzi, buon lavoro. Grazie, grazie molte. Allora, andiamo grazie a secondo... mille, buona domenica. Andiamo a secondo indizio. Che indizio. Dici? Andiamo a secondo indizio. Il nostro il personaggio ha sorpreso chi l'ha ricevuta, ovvero la donazione. Esatto. Nel senso che il nostro personaggio ha fatto una donazione importante e così facendo ha sorpreso chi l'ha ricevuta. Mm. Quindi qualcuno che non se l'aspettava, ecco, diciamo così. Va bene, cosa abbiamo? Siamo giunti al momento della viabilità, siamo pronti? Sì, diamo spazio alle notizie sul traffico e poi tra pochissimo l'assegnazione dell'ambito premio L'altro pianeta e ci auguriamo magari anche l'ascoltatore che indovina l'indovinello. Si può fare. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Premio L'altro pianeta. Ed eccoci arrivati al momento in cui attribuiamo il premio L'altro pianeta. Lo facciamo ogni domenica per così sottolineare, ecco, coloro che si impegnano per un ambiente migliore, per cambiare le cose, per l'economia circolare, per stare meglio su questo pianeta, per l'appunto. E questa settimana abbiamo in linea con noi il direttore di Agraria Riva del Garda, società cooperativa. Lui si chiama Massimo Fia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora direttore, abbiamo buongiorno. Scelto la vostra azienda perché voi fate olio d'oliva, va bene, ma non avete alcuno scarto di lavorazione, cioè non solo fate l'olio, ma tutto quello che resta viene utilizzato. Sì, diciamo che la nostra politica è la gestione del territorio e quindi salvaguardare tutto quello che madre natura ci dà. Chiaramente dall'oliva ricaviamo una percentuale di olio che è dal 12 al 15%, ma il resto cos'è? E noi abbiamo cercato di sfruttare l'85%, e quindi la salsa diventa un mangime, il nocciolino diventa un combustibile e l'acqua, che è il 50% dell'oliva, abbiamo concentrato e diventa un concentrato fenolico, visto che diciamo l'olio con i fenoli è pieno di antiossidanti e quindi questa concentrazione ci consente di così avere questo concentrato. Per il momento lo usiamo sugli animali, quindi come mangime. Mentre per quanto riguarda l'uso umano, adesso abbiamo già uno studio che ci consente di usarlo come additivo. Per quanto riguarda invece la nutraceutica, dobbiamo usarlo ancora e sperimentarlo in campo. Dunque, ma ho capito bene, il 20% è olio? E sì, tutto esatto, il resto? Perché dall'oliva massimo il 20%, 15% massimo. Quando va bene, insomma. Il resto, diciamo, è tutto riuso, quindi noi dobbiamo... Ma che cosa se ne fa normalmente? Adesso noi dobbiamo riusarlo. Si butta proprio via? Si butta proprio via? Dicevo, adesso si butta proprio via il... Diciamo che la stanza una volta si usava per fare l'olio di stanza. Anche questo diciamo va in disuso, ci sono ancora stanzifici, però ad esempio noi in Trentino il primo stanzificio è in Toscana, quindi portare la stanza in Toscana diventava un costo, quindi tutto questo fa parte di questo riuso dei prodotti dell'oliva e questo ci consente di pagare anche qualcosa in più al coltivatore. Eh beh, certo, perché comunque poi non ci sono scarti ma prodotti, quindi cambiano prodotti che risparmiano costi, ma in più riusciamo anche ad avere, diciamo, per il momento anche un piccolo guadagno. Quindi, in parte per gli animali, la sansa, poi il nocciolino. Cioè, il nocciolino è anche un combustibile. Pensi che ha un potere calorico enorme il nocciolino, perché praticamente il nocciolo dell'oliva, che chiaramente nella francitura viene fatto e quindi diventa tutto una, diventa insomma una specie di graniglia attraverso la quale può essere bruciata. Ma se ne fanno tipo dei pellet? Esattamente, che ha un potere calorico molto forte. Mescolato e quindi entra nella composizione di un pellet. Dopodiché c'è le acque di vegetazione, che anche quello è un prodotto che Di solito viene fatto espandimento in esatto campo. E invece voi lo purificate? Esattamente, attraverso dei microfiltri, osmosi inversi, procedimenti particolari riusciamo a fare questo concentrato fenolico, che sono antiossidanti, è la vita, è quello che ad esempio negli animali diciamo fa crescere le barriere immunitarie e quindi meno antibiotici, per esempio, no? Quindi c'è anche questo fattore qua. Quindi c'è un altro vantaggio ulteriore nell'utilizzo. Certo. Mi sembra tutto molto bello. Voi siete un'azienda che fa solo olio, no? No. Chiaramente la cooperativa abbiamo anche una cantina sociale e quindi abbiamo anche, diciamo, facciamo dei vini trentini, chiaramente dai bianchi e rossi, compresi gli aromatici, perché abbiamo a Rio del Garda una timetria da 80 metri, che è il lago, però arriviamo fino ai 600-700 metri della collina. No, glielo chiedevo per capire, quindi molto di questi prodotti che vengono utilizzati direttamente dai soci della cooperativa. No, riusciamo anche a commercializzarli. Il concentrato fenolico per uso animale gira anche il mondo, quindi lo vendiamo sia in Italia che all'estero. Quindi insomma win-win, direi, questa situazione, vince su tutta la linea. Sì, perché chiaramente questo per uno stato di necessità comunque è sempre una spinta della cooperativa a migliorarci e quindi a innovare, quindi cercare sempre nuove frontiere. Carlo, non so se ma avevi... Volevo chiedere una cosa. Sì, volevo chiedere, ma com'è cambiato l'olio in questi ultimi 10, 20, 30 anni? Perché ho la sensazione che sia cambiato anche il percepito. Un tempo sostanzialmente l'olio era quello del sud e l'olio del nord, non so, si diceva è più leggero, è meno corposo. Adesso invece mi sembra, visto che stiamo parlando di olio del lago di Garda, insomma, volevo capire se è cambiato in qualche modo. Ma allora è cambiato molto. E soprattutto anche il percepito che chiaramente il consumatore ha sempre, quindi anche l'iniziativa che fa Unaprol con il progetto Ecce Olio, finanziato dalla Comunità Europea, va verso questa sensibilizzazione sia del mercato che del consumatore, per far capire che le DOP, soprattutto quelle certificate che certificano l'origine del prodotto, DOP, IGP e anche bio, al consumatore danno questa certezza della qualità e delle caratteristiche uniche dell'olio. In più si scopre in questo momento anche le cultivar, pensate che ci sono più di 600 in Italia cultivar, cosa vuol dire? Varietà di ulivo, come abbiamo il Merlot e lo Chardonnay per quanto riguarda il vino, noi abbiamo ad esempio la Casaliva, ma se andiamo in Puglia abbiamo la Coratina, se andiamo in Sicilia abbiamo la Tondebrea e avanti di questo passo qua. Quindi queste culti fanno caratterizzare una volta territorio. È verissimo, una volta sono stato al Vinitaly e mi ricordo che c'era un intero capannone dove si faceva anche assaggi di olio e si bevevano dei ciupiti di olio squisiti. Esattamente, quindi impariamo, oltre che abbinare il vino, si abbina anche l'olio al cibo e questa è una grande frontiera, anche questo su cui andare avanti. E le azioni che si fanno in Frantoio, ma anche con le nostre organizzazioni come Unaprol, danno questo senso e questa possibilità al mercato, al consumatore, di aumentare il loro percepito, insomma, della qualità. Benissimo, allora ci siamo dilettati anche a parlare di olio, visto? C'è spazio per tutto. Io la ringrazio molto davvero di questo collegamento e vi ringrazio anche del lavoro che fate, insomma, perché fa bene a voi ma fa bene anche a noi. Massimo Fia, ricordo, frantoio di Agraria Riva del Garda. Grazie per essere stato con noi, buon proseguimento, e abbiamo tantissimi che hanno chiamato per indovinare chi è il personaggio della settimana. Sei pronto, Carlo? Certo. Benissimo, iniziamo da Alessandro da Pordenone, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie della telefonata e anche della pazienza in attesa. Chi è secondo lei il personaggio della settimana? Secondo me è George Clooney, che ha donato $1 milione favore di vari enti anche per il coronavirus. Ok. Non era lui. Va bene. Comunque, se no, tutti. Non era lui, e in questo momento non ricordo nemmeno che è la donazione di George Clooney, quindi non posso essere nemmeno d'aiuto. Va bene, anch'io, però per noi è tutta una sorpresa. Adesso io vado in ordine di comparsa, dunque, quindi abbiamo Baciter da Roma. C'è? Sì. Sì. Buongiorno, ma buongiorno. Che strano nome, che nome è? È un nome indiano, cioè, lavora nel allevamento qui a Roma, quindi Singh Baciter, cognome fa Singh. E invece il nome è Baciter. Bene. Lo pronuncia bene lei. Sì, è il nome mio. Dici tutto, Baciter. Allora, no, dicevo, secondo me è Bill Gates che ha fatto grande somma di donazione quando Donald Trump ha detto che a OMS non gli dà più soldi. Invece lui ha subito detto che dona una bella somma. Secondo me. Sentiamo. No. Non okay. È neanche Bill Gates. Non è Bill Gates. Ma ringraziamo di aver ricordato questa storia, perché come sappiamo, appunto, Trump ha deciso di cancellare tutti i finanziamenti all'OMS, e anche il motivo del concerto di stanotte, di ieri notte, quello di cui abbiamo parlato in testa alla trasmissione, era esattamente raccogliere dei soldi da dare all'OMS, perché Trump non li vuole dare ma gli americani sì. Sì, tra l'altro adesso gira negli Stati Uniti questa no, il solito ipotesi di complotto, è tutto dovuto, è tutto colpa di Bill Gates, il coronavirus l'ha messo in giro lui, perché così poi guadagnerà, non si sa bene dove, ma guadagnerà. Quindi c'è veramente, c'è la disinformazione è totale, e la confusione sì. È totale sotto il sole in questo periodo. Come abbiamo, Laura, come abbiamo raccontato diverse settimane fa, tutto nasce da quel video di Bill Gates che nel 2015 diceva molto chiaramente: il pericolo che vedo in futuro non è una terza guerra mondiale, ma semmai sarà un virus a metterci in ginocchio. Sì. Sì, tutto vero, poi dopo uno può fare delle affermazioni. Sentiamo però Luciano, sì, mi segnalano che insomma se vuoi dobbiamo correre. Luciano da Firenze. Sì, buongiorno. Buongiorno Luciano, secondo lei chi buongiorno. È? Secondo me è Novak Djokovic. Il tennista? Il tennista che qualche giorno fa... insomma, è apparsa la notizia, mi pare il direttore sanitario dell'ospedale di Bergamo che aveva trovato questo nome tra i tanti che avevano fatto una donazione, è rimasto molto sorpreso, ovviamente non ha indicato l'importo. Beh, questo è un altro elemento molto positivo. Ho messo fretta al notaio perché dobbiamo chiudere in 10 secondi. È giusto. Abbiamo aperto col tennis e chiudiamo col tennis. Djokovic, €1 milione alla Serbia, €1 milione all'ospedale di Bergamo, e lo ringraziamo. Grazie anche a Luciano da Firenze. Noi qui ci dobbiamo salutare. Danilo Di Trani, Edoardo Lavezzari, Andrea Piana in redazione, in assistenza oggi sempre Edoardo Lavezzari, Peter Bescapè, da Laura Bettini. Un buon proseguimento d'ascolto, appuntamento la settimana prossima e... Ciao da Carlo Gabardini, ci sentiamo sabato prossimo alle 8:30.